Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Buonasera, protagonista della nostra puntata è il desiderio di Giuseppe. Vorrei un hard disk sul comodino che registrasse i miei sogni. Questa tecnologia ancora non esiste, ma un giorno sul comodino dovremmo avere uno strumento che riconosce come funziona il nostro cervello, ma i computer di oggi ancora non sanno farlo. Cerchiamo dunque di capire come funziona un computer con un esempio. Mentre siamo in cucina mangiando un biscotto, ci chiamano sul cellulare e ci chiedono se nel piatto del gatto ci sono i croccantini. Un computer fa così. Masticare biscotto. Rispondere telefono. Memorizzata domanda telefonica. Croccantini nel piatto. Parlare telefono. Confermato. Croccantini nel piatto. Insomma, si procede una cosa per volta, velocemente. Anche molto velocemente. Masticare biscotto. Rispondere telefono. Ascoltare voce telefono. Memorizzata domanda telefonica. Inquadrare tazza. Croccantini nel piatto. Parlare telefono. Confermato. Croccantini nel piatto. Il nostro cervello, invece, funziona in questo modo. Pronto? Ciao, sì, sto mangiando un biscotto. I croccantini? Sì, ci sono. Sento il gatto che li sta mangiando. A dopo, ciao. Per quanto veloce, il computer fa una cosa per volta. Noi, più lentamente, ne facciamo moltissime, tutte insieme. Synapsi è un progetto di IBM che quest'anno ha mosso i primi passi verso la costruzione di circuiti che lavorano come i neuroni. Ma siamo ancora troppo lontani dagli hard disk per registrare i sogni. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.